America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24. Buongiorno Simone da New York, Mario Platero. In terms of actual temperatures, when you factor in our winds, we have wind chills anywhere from 24 degrees below zero this morning in Belton to 35 degrees below zero in Trenton, Missouri. Il vento, il wind chill, il vento freddo, gelido, beh, devo dire che è proprio questo vento che sta trasformando queste giornate freddissime che abbiamo in America, che hanno un po' paralizzato il paese in delle giornate record. Oggi è la giornata record, potrebbe essere la giornata record per la temperatura più fredda mai registrata negli Stati Uniti negli ultimi 100 anni. Pensate, negli ultimi 100 anni il pronostico di una stazione meteorologica è che questo potrebbe succedere nel North Dakota, e quindi molto al nord, dove ci sono queste pianure, queste spianate, dove non c'è neanche protezione da questo ventaccio che spira durissimo, e potrebbe arrivare la temperatura a meno 51 gradi. Dunque parliamo di temperatura non soltanto polare, ma di temperatura da Antartica. Immagino che molti di voi che mi ascoltate avrete preso un aereo, e prendendo l'aereo si vede che l'altezza a un certo punto dice, beh, siamo a 10.000 metri, siamo a 9.000 metri, siamo a 11.000 metri, e si vede in parallelo la temperatura a quell'altezza. Cioè, appunto, io leggo ogni tanto con terrore, con meno 51 gradi, oh my god, che cosa sarà mai? Ebbene, nel North Dakota potrebbero sperimentarlo. Qui a New York, beh, devo dire, stiamo molto meglio, perché siamo soltanto a meno 12, meno 13 questa mattina, con consiglio naturalmente da parte di tutti di stare assolutamente a casa. Da dove deriva questo freddo improvviso? Perché improvviso? Attenzione, abbiamo avuto brutte giornate la settimana scorsa, ma ieri qui a New York pensate che avevamo 14-15 gradi, c'era una situazione, come dire, tiepida, quasi tropicale, pioveva, brutto tempo, quel tempo molto deprimente, buio alle 4:30, però non era freddo, si stava anche abbastanza bene. Il cambiamento è avvenuto durante la notte e appunto nel corso delle prime ore dell'alba. Perché? This month's dangerously cold weather comes from a blast of Arctic air known as a polar vortex. The nation is dealing with conditions not seen in decades. Today's high temperature in Minneapolis is expected to be minus 11. La risposta è, come avete sentito dalle televisioni americane che non parlano d'altro, potete immaginare, qui non si parla d'altro, è il polar vortex, il vortice polare. Che cos'è il vortice polare? Beh, al polo nord c'è una diciamo situazione di bassa pressione, per cui c'è un vento che gira in senso antiorario e che in genere tiene contenute le temperature freddissime del polo nord nel contesto della calotta polare. Ogni tanto ci sono delle sbavature, ve lo descrivo, probabilmente un meteorologo sarà inorridito da questa mia descrizione, ma io cerco di spiegarvelo nel modo più semplice possibile. Vi dicevo, ci sono delle sbavature e questi venti sfondano e vanno più a sud. Non è una tempesta, non è un uragano, è un polar vortex, è un vortice polare. Si vede quest'aria circolare che a un certo punto comincia a lambire le regioni più meridionali, e dunque è arrivato fino a ieri nella zona più nord-ovest degli Stati Uniti, intorno al Montana, l'Illinois, il Minnesota, appunto il North Dakota, e poi piano piano si è avvicinato sempre in questo movimento circolare arrivando fino a noi. Ecco, qual è la differenza con altri sistemi tipo il tornado, l'uragano, eccetera, eccetera? È che quando ci sono queste distorsioni del vortice polare ci sono delle situazioni in cui le turbulenze durano molto più a lungo di una singola unica tempesta. Una tempesta può durare un quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora, un giorno, può durare, ma diciamo arriva, passa, l'uragano ha il suo momento peggiore, ma nel giro di un'ora, due ore va via. Qui può durare invece molte ore, e c'è questa caratteristica di una caduta brusca delle temperature molto molto diffusa. All my exes live in Texas. And Texas is a place I'd dearly love to be. With all my exes live in Texas, and that's why I hang my hat in Tennessee. All My Exes Live in Texas. Beh, queste sono le tipiche canzoni country western. Il Texas, il Tennessee, Tennessee menzionato in questa canzone, una delle canzoni country western, devo dire, che preferisco, è così classica e ci dà l'idea dello stile un po' così sdolcinato, tranquillo, del sud, dove fa sempre caldo. Il freddo è arrivato anche in Texas, è arrivato anche in Tennessee. Nashville, capitale della musica, è rimasta anche lei paralizzata, impreparata da questa ondata di freddo. Non siamo arrivati alle temperature del nord, ma quando si comincia ad andare a meno 10, meno 12, meno 8, e ancora naturalmente siamo presto al mattino, non abbiamo un'idea di quello che succederà, di quello che è successo, di quello che succederà un po' dappertutto in America. Sappiamo però che migliaia di voli sono stati cancellati, che molte scuole sono rimaste chiuse, che la nazione è in uno stato di emergenza, che la regione più colpita, che si estende appunto dal Midwest, dal nord Midwest fino alla costa nord orientale dove siamo noi, riguarda 100 milioni di persone. The yeas are 56, the nays are 26. The nomination is confirmed. Janet Yellen, il Senato ha approvato la sua nomina alla guida della Federal Reserve. Un'altra notizia storica, l'ho messa in seconda battuta semplicemente perché ne abbiamo parlato da molto tempo, era una notizia scontata. La dobbiamo registrare pur sempre perché sarà la giornata di ieri a essere ricordata come la giornata in cui Janet Yellen, una donna, la prima donna, è stata chiamata a guidare la Federal Reserve. Il passaggio delle consegne avverrà alla fine di gennaio, avremo tempo per parlare di questo passaggio delle consegne, che sarà certamente molto molto morbido. Tutto quello che si doveva dire o scrivere su quella che sarà la politica monetaria della Fed lo abbiamo già detto, e il passaggio a un allentamento degli interventi sul mercato, il cosiddetto tapering, come sappiamo è già successo. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @ Mario Platero, ed eccoci alla canzone del giorno. Devo dire una notizia che me la sento nella testa da qualche giorno, perché nel fine settimana è scomparso Phil Everly, che è uno dei due Everly Brothers, un simbolo, un grandissimo duo che negli anni 50-60 ha fatto scuola, preparato il terreno per altri duo importanti come Simon & Garfunkel, per altri gruppi importanti come i Beatles. E dunque io in questa giornata così difficile per l'America, tormentata dal freddo, voglio ricordare gli Everly Brothers e voglio ricordare che l'America è un paese che non smetterà mai comunque di sognare. E dunque, All I Have to Do is Dream, degli Everly Brothers. Only trouble is, gee whiz, I'm dreaming my life away. I need you so, that I could die, I love you so, and that is why. Da New York è tutto, Simone, ti ripasso la linea, Mario Platero vi saluta, vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!